Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ci siamo tutti posti il dilemma di cosa farvi ascoltare il giorno di Pasquetta, che è un giorno di festa in cui normalmente anche noi ci prendiamo un giorno di serenità e tranquillità e quindi mandiamo delle trasmissioni di repertorio o delle trasmissioni studiate, pensate appunto per l'occasione in cui verranno ascoltate. Devo dire, io ci siamo lasciati il venerdì di Pasqua in cui abbiamo parlato a profusione di quello che era il pranzo pasquale. Oggi riparlare del pranzo di Pasquetta mi sarebbe sembrato eccessivo. Quindi voglio, in un giorno in cui la maggior parte delle persone vivrà felicemente, mi auguro per tutti, in maniera leggiadra, serena, spensierata questa giornata, un punto di riflessione su un argomento che spesso ricorre nelle mie trasmissioni. Qualcuno dice per conflitto di interesse, ma vi dico sinceramente perché mi piace e insisto nel richiamare l'attenzione su una parte dell'umanità che ha bisogno di attenzione, in un momento in cui sembra che le attenzioni istituzionali siano portate e indirizzate nel richiamare l'attenzione su forti elementi emotivi. Insomma, ho visto abbracciare tanti agnellini per questa Pasqua, mi piacerebbe ricordare a chi abbraccia gli agnellini, che è cosa lecita, giusta, anche gratificante, anche perché gli agnellini poi fanno delle palline nere, questo è risaputo, quando girano per i palazzi istituzionali lasciano la loro traccia. Provate a abbracciare anche dei ragazzi che in realtà hanno delle difficoltà ad essere abbracciati. Queste difficoltà possono diminuire e soprattutto farete un grande servizio ai loro genitori. Qualche tempo fa vi feci ascoltare la lettera di una mamma che mi scriveva chiedendomi proprio attenzione su quello del quotidiano pratico legato alla gestione di figli molto particolari da parte di genitori che ne hanno il totale carico sulle loro spalle. Caro Gianluca, oggi vorrei che tu affrontassi, come già fai da tempo, un argomento difficile da sdoganare perché è fuori moda. Io vorrei che tu parlassi del punto di vista femminile nella cura e nel trattamento delle persone con disabilità. Noi mamme dell'autismo non ne possiamo più di padri tronfi che portano a fare il giro del mondo il loro giovi in pargoletto, commuovendo il mondo intero. Dov'erano questi padri quando il bambino urlava, piangeva, dormiva 2 ore per notte, spaccava tutto quello che avevamo l'ardire di mettere sotto le sue dolci manine e ci faceva fare la parte delle povere donnicciole senza nerbo di fronte alle altre mamme, alle maestre e anche al nostro stesso marito? Ti voglio chiedere di parlare di noi donne dell'autismo affinché la nostra odissea non si maceri nell'oblio, non sia materia di trasmissioni pietistiche, di riviste per donnicciole, di rotocalchi da ultima pagina. Con affetto vero, Elena. Nel corso di questa trasmissione quindi sentiremo le domande che ho posto ad alcune mamme che anche questo giorno di Pasquetta probabilmente avranno una Pasquetta diversa dalle altre, perché oltre al generale tripudio che condivideranno con tutti, oltre all'impegno che hanno normalmente le madri nel mettere a tavola persone o di portare persone a fare scampagnate, ne avranno uno in più, avranno da gestire un figlio che non sempre ha comportamenti così tranquilli e così regolari. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra. A ognuna di voi chiediamo, quando e come hai avuto la certezza del problema di tuo figlio? Prestissimo, sono stata molto fortunata perché io mi sono accorta e ho sospettato delle sue stranezze intorno ai 9 mesi. Ho avuto la certezza che mia figlia avesse la sclerosi tuberosa e poi in seconda battuta fosse affetta da autismo nel momento in cui l'ho guardata non con gli occhi di mamma ma con gli occhi di medico. L'ho vista sul lettino del neuropsichiatra che la stava visitando e in quel momento ho capito che era autistica. Ho avuto la certezza del problema di mia figlia a 3 anni, quando abbiamo visto che era chiusa nel suo mondo, non ci guardava più, aveva perso anche il linguaggio e quindi lì è stato abbastanza veloce da capirlo. La diagnosi di Antonio, la conferma ce l'ha avuta reale, ce l'ha avuta intorno ai 6 anni, anche se poi intorno ai 2 anni e mezzo c'era qualcosa che non andava perché lui si isolava un po', stava un po' per conto suo. Poi verso i 3 anni non cominciava a pronunciare le parole tipiche che si pronunciano a quell'età.